La felicità, come tutti sanno, è una delle parole d'ordine della cultura illuministica. Sulla definizione della felicità, tuttavia, le opinioni di filosofi settecenteschi non sono affatto unanimi. E nel tentativo di ritrovare una prima, generalissima linea di demarcazione tra posizioni fondamentali, occorre subito notare che sussiste una notevole divergenza tra l'eudemonismo della cultura inglese e francese da un lato e quello della Aufklärung tedesca dall'altro. Nel primo caso appare determinante l'assimilazione operata da Locke tra felicità e piacere, per cui l'eudemonismo assume quasi sempre toni più o meno marcatamente edonistici. Grazie. Nella tradizione tedesca, invece, prevale un eudemonismo razionalistico che lascia poco spazio alla determinazione sensibile ed edonistica della felicità, incentrando quest'ultima sui valori dello spirito e sul conseguimento della perfezione morale. Il referente moderno più immediato di questa posizione è senz'altro Leibniz, i cui pensieri sulla felicità sono contenuti, tra l'altro, nelle pagine dei Nuovi Saggi, specificamente volte a confutare o almeno a correggere i passi del saggio sull'intelletto umano in cui Locke difendeva l'identità tra happiness e pleasure. Leibniz non esclude che il piacere entri nella determinazione della felicità, ma lo intende come gioia, come Freud, oppure come un piacere dell'anima, eine Lust der Seele. La felicità risiede infatti nella percezione, in se stessi o negli altri, di una perfezione intesa come ordine, unità nella molteplicità, armonia delle parti in un tutto. Di conseguenza, la sensibilità non può essere una fonte sicura di felicità, poiché spesso essa non è in grado di cogliere quell'ordine armonico che si rivela soltanto nella conoscenza intellettuale. Ancora maggiore sarà poi la felicità se questa perfezione non soltanto è contemplata sul piano teorico, ma è anche promossa su quello pratico, cioè se alla chiara conoscenza intellettuale si accompagna la virtù. L'eudemonismo leibniziano si impernia dunque su un rigoroso razionalismo gnosologico ed etico. Cito: nulla giova la felicità quanto l'illuminazione dell'intelletto e la pratica della volontà di agire sempre secondo l'intelletto. E tale illuminazione è da cercare specialmente nella conoscenza di quelle cose che possono elevare il nostro intelletto ha una luce sempre più alta, perché così ne risulta un continuo progresso nella sapienza e nella virtù, quindi anche nella perfezione e nella felicità. E poiché la massima, fine della citazione, e poiché la massima perfezione possibile è quella divina, accanto agli aspetti razionalistici ed etici, l'eudemonismo leibniziano presenta anche un essenziale carattere religioso. La beatitudine, la massima felicità possibile, coincide con la contemplazione di Dio, l'amore nei confronti di Dio. La convergenza tra felicità e perfezione sancita da Leibniz fece scuola. Ripresa da Wolff, essa venne condivisa dalla maggior parte dell'Aufklärung tedesca, compresi wolfiani teodossi come Clusius o popolari filosofi come Mendelssohn. Malgrado le differenze contestuali, i pensatori che operano nell'ambito del wolfismo presentano gli stessi caratteri dell'eudemonismo leibniziano. In primo luogo, la felicità, la difesa della felicità, si iscrive in un quadro rigorosamente razionalistico e comporta una svalutazione della componente sensibile. In secondo luogo, la felicità-perfezione assume una connotazione morale, per cui essa appare come la conseguenza diretta della virtù, e in questo senso non è difficile riscontrare nella cultura filosofica tedesca del Settecento una massiccia presenza della tradizione stoica di contro all'epicurismo che prevale nella cultura francese. In terzo luogo, la felicità, depurata dai suoi aspetti sensibili, diventa un elemento costitutivo dello stesso discorso religioso o teologico. Ora, contro questa tradizione dell'eudemonismo etico e razionalistico, Kant prende nettamente posizione, in alcuni passi della sua opera almeno. Nella Metafisica dei costumi afferma: c'è veramente da stupirsi che, secondo le interpretazioni del dovere finora formulate, fu ancora possibile ricondurlo, il principio del dovere, alla dottrina della felicità, così che alla fine si aveva in mente una sorta di felicità morale, non dipendente da cause empiriche, il che è un'assurdità che contraddice se stessa, ein sich selbst widersprechendes Unding. Poco oltre, Kant riafferma la sua contrarietà nei confronti di chi, oltre alla felicità fisica, che deriva da un dono della natura, continua a presupporre l'esistenza di una felicità morale, consistente nella contentezza di sé e della propria moralità. Se si considerano propriamente i termini che la compongono, l'espressione moralische Glückseligkeit, dice Kant, contiene una contraddizione in sé, e soltanto attraverso un, sono parole sue, abuso del termine, si può indicare con questa espressione la contentezza derivante dalla coscienza della propria perfezione. Del resto è ben noto a tutti il passo della critica della ragion pratica, nel quale Kant nega ogni connessione tra la contentezza di sé, la Selbstzufriedenheit, derivante dalla coscienza della propria virtù, e la felicità. La prima non è che la soddisfazione negativa della propria esistenza, conseguente la consapevolezza di essersi resi indipendenti dalla sensibilità, mentre la seconda comporta invece la soddisfazione positiva delle inclinazioni e ricade quindi completamente nell'ambito della sensibilità. Si spiegano così anche le frequenti prese di posizione kantiana contro la dottrina stoica della felicità, come conseguenza immediata della virtù. Essa è sicuramente da preferirsi alla concezione epicurea, poiché riconosce l'assoluta priorità assiologica della virtù, ma disconosce la naturale tendenza degli uomini alla felicità sensibile e materiale. Gli stoici antichi non avrebbero commesso questo errore, dice Kant, se avessero dato maggior ascolto alla voce della loro stessa natura. Prendendo distanza dalla precedente tradizione tedesca e quindi implicitamente accostandosi a quella anglo-francese, Kant riconosce dunque la natura essenzialmente sensibile della felicità. E questo riconoscimento, a sua volta, come tutti sanno, ha almeno tre esiti complementari. In primo luogo, comporta che i contenuti della felicità siano sempre soggettivi e particolari, la felicità è un ideale dell'immaginazione, non della ragione. In secondo luogo, comporta che la realizzazione della felicità, definita nella critica del giudizio come l'insieme di tutti i fini dell'uomo possibili per mezzo della natura esterna e interna a lui, non dipende soltanto dalla ragione umana, ma deriva, sono parole sue, dalla beneficenza della natura. Quindi la felicità è espressione di eteronomia, e la terza conseguenza, che è poi la manifestazione più esplicita dell'antieudemonismo kantiano, è la netta contrapposizione, sulla quale non vale la pena di insistere, tra virtù e felicità. Ora, recenti studi hanno mostrato che questa visione della concezione kantiana della felicità, che tutti conosciamo, deve essere corretta o almeno integrata sulla base delle riflessioni degli anni 70 e dei primi anni 80. La tesi fondamentale che si evince dalla lettura di queste riflessioni, di questi appunti inediti, è che la ragione oppure l'intelletto fornisce regole a priori per rendere reciprocamente compatibili le inclinazioni, in modo da comporle in tutto armonico e sistematico. La felicità derivante dalla soddisfazione di questo sistema armonico di bisogni e inclinazioni non ha quindi contenuti particolari e soggettivi, ma è una allgemeine Glückseligkeit, una felicità universale, ed obbedisce pertanto a leggi universali. Essa stessa si configura come un sistema, sono tutte espressioni kantiane, un sistema, come felicità del tutto, come idea, come la rappresentazione del tutto. In ogni caso, cito, essa produce la massima armonia di un uomo con se stesso e con gli altri, fine della citazione, poiché rende perfettamente conciliabili le inclinazioni sia all'interno del singolo individuo, sia tra individui diversi. Questo concetto di felicità universale consente quindi a Kant di operare una netta distinzione, questa volta in fondamentale accordo con la precedente tradizione leibniziano-wolfiana, tra felicità vera o autentica, che dipende essenzialmente dalla ragione, e quella inautentica, che è un effetto casuale e dipendente esteriormente dalla natura. Alla felicità intesa fisicamente e sensibilmente viene quindi contrapposta una felicità intellettualizzata, definita come felicità del mondo dell'intelletto o anche felicità a priori. E in una riflessione si precisa che, cito, le leggi necessarie che sussistono a priori della felicità universale sono leggi morali. Fine della citazione. Lo svincolamento della felicità dalle condizioni della sensibilità, la sua determinazione a priori da parte della ragione, comportano infatti immediatamente una sua stretta connessione con la moralità. Lungi dall'essere condizionata dalla sensibilità, la felicità, si intende quella vera, quella universale, è una determinazione della libertà morale. Quest'ultima è, di nuovo espressione di Kant, il fondamento, la causa necessaria della felicità, mentre la felicità è descritta come effetto o prodotto della libertà. Inoltre, il fatto che la felicità universale trovi le proprie condizioni di possibilità nella libertà morale, anziché nella sensibilità, ha un'altra conseguenza importante. Essa non dipende dalla natura, ma dalla volontà dell'uomo. Cito Kant, sta in noi sottoporre la felicità a una regola. Siamo noi stessi creatori, selbst Schöpfer, della felicità universale. Le riflessioni degli anni 70, dei primi anni 80, non conoscono quindi l'opposizione tra autonomia della morale ed eteronomia della felicità, che caratterizzerà gli schetti a stampa. L'autocrazia della libertà, per riprendere un'espressione di Kant di questi anni, riguarda la felicità non meno che la moralità, il che consente a Kant di usare espressioni di schietto sapore stoico nell'affermare che, e lo cito, il virtuoso contiene in se stesso la felicità, per quanto possano essere sfavorevoli le circostanze. Fine della citazione. Infatti, malgrado anche nelle riflessioni ricorre costantemente l'espressione Würdigkeit glücklich zu sein, che notoriamente connota la condizione dell'uomo virtuoso, è innegabile che in esse si realizzi una certa convergenza tra la dignità o il merito, così noi traduciamo solitamente Würdigkeit, e la capacità, Fähigkeit, di essere felici. In una riflessione Kant afferma esplicitamente che, cito, soltanto in base all'idea, cioè alla rappresentazione del tutto, noi siamo capaci, fähig, di felicità. E poiché questa capacità è una conseguenza della nostra libera volontà, anche degni, würdig, di essa. Di converso, un'altra riflessione si sostiene che è degno, würdig, della felicità, colui le cui libere azioni sono indirizzate all'accordo, Einstein, con il fondamento generale della felicità stessa, e quindi colui che è capace, fähig, della felicità in base alle proprie azioni. Il fatto che l'uomo abbia in se stesso la fonte della felicità non significa però che con ciò sia garantita la realizzazione della felicità stessa, così come l'essere l'unico responsabile della propria virtù non comporta che l'uomo possa raggiungere la perfezione morale. Per questo, malgrado alcune oscillazioni, sin dagli anni 70 Kant è incline a ritenere che a causa dell'imperfezione morale dell'uomo la piena realizzazione della felicità universale debba essere proiettata in un mondo futuro e realizzata soltanto mediante l'intervento di Dio. E in questo modo la innegabile influenza della tradizione stoica viene corretta sin d'ora con un riferimento alla visione cristiana di un Dio provvidente e di una futura beatitudine eterna. Una tesi assai simile a quella prospettata nelle riflessioni è difesa da Kant nella critica della ragion pura, o più precisamente nel canone della ragion pura. Quindi, sotto questo aspetto, la critica della ragion pura non rappresenta un momento maturo della riflessione kantiana per quanto riguarda la riflessione sulla felicità, ma un momento ancora arretrato, cioè che riflette la stessa situazione delle riflessioni. Anche qui Kant parla della necessità pratica di principi puri a priori, in base ai quali, cito, la libertà, parte mossa, parte limitata dalle leggi morali, sarebbe essa stessa causa della felicità universale. Fine della citazione. Gli esseri ragionevoli sarebbero, cito ancora, autori del loro proprio benessere duraturo e insieme di quello altrui. Fine della citazione. In questo modo si avrebbe un sistema della moralità che ricompensa se stessa, sistema della moralità che ricompensa se stessa, in quanto si realizzerebbe un mondo morale. Mondo morale, per mondo morale Kant intende, tutti sappiamo, un mondo conforme a tutte le leggi morali, il quale avrebbe come effetto anche sensibile l'armonizzazione, un complesso unitario delle tendenze individuali alla felicità. Tuttavia, anche qui, il mondo morale, condizione della realizzazione della felicità generale, pur avendo realtà oggettiva come idea pratica che deve influire regolativamente sul mondo sensibile, esprime soltanto una condizione ideale, in cui si estrae da tutte le condizioni empiriche, da tutti gli ostacoli alla moralità inerenti alla natura umana. In quanto tale, esso può essere pensato soltanto come un mondo intelligibile e poiché nulla nel mondo fenomenico fa sperare che esso possa essere conseguenza immediata delle nostre azioni, noi dobbiamo pensare tale idea come mondo futuro, retto da un creatore e reggitore sapiente. Questa dottrina della felicità universale, esposta nelle riflessioni, e poi ripresa dalla prima critica, non va certo esente da ambiguità. E l'ambiguità fondamentale è quella che riguarda la determinazione dello spazio che viene lasciato in tale nozione all'elemento della sensibilità. Infatti, da un lato, le radici morali della felicità universale non escludono certo la presenza in essa di un contenuto sensibile. Al contrario, come abbiamo visto, la felicità consiste nel realizzare un sistema organico delle inclinazioni sensibili. E Kant precisa che la felicità universale consta di due aspetti. La materia della felicità è sensibile, mentre la sua forma è intellettuale. La materia data dalla natura, dall'insieme delle inclinazioni, la forma dalla, cito, libertà sotto leggi a priori. Ma, d'altro lato, ci sono molte esplicite affermazioni kantiane, che adesso non cito per brevità, nelle quali Kant, escludendo completamente l'aspetto materiale, fa consistere la felicità soltanto nella forma, cioè nella consapevolezza del fatto che la fonte della felicità, cioè la possibilità della conciliazione delle inclinazioni, risiede unicamente nella ragione e nella libertà. La felicità verrebbe pertanto coincidere con una sorta di consapevolezza morale, cioè appunto con quella contentezza di sé che nella critica della ragion pratica Kant manterrà ben distinta dalla felicità. Ora, questo scenario cambia completamente verso la metà degli anni Ottanta, per lasciar posto appunto quella concezione kantiana della felicità sensibile a cui siamo più abituati. Alla metà degli anni Ottanta, appunto, Kant non sembra più credere alla possibilità della felicità universale, cui ancora faceva riferimento nella prima critica. Nella Grundlegung, la fondazione della metafisica dei costumi, egli espressamente nega, come tutti sappiamo, che un'idea razionale di felicità, cioè una rappresentazione della felicità come totalità sistematica, sia possibile per l'uomo, il quale dispone sempre soltanto di un concetto empirico di essa. Di qui la radicale contrapposizione della felicità alla moralità, E l'analitica, poi l'analitica della critica della ragion pratica non farà che riprendere questa contrapposizione, consolidandone la strutturazione sistematica. Sono cose che sappiamo tutti: la moralità presenta il carattere della formalità, dell'universalità, dell'autonomia, la felicità quelli della materialità, della particolarità, dell'eteronomia. E la conclusione è che la felicità universale, come viene detto in un lungo passo della critica della ragion pratica che vi risparmio, viene esplicitamente dichiarata illusoria. Cos'era successo? È successo probabilmente questo, che la definitiva formulazione dell'etica kantiana, in termini non solo di universalità ma anche e soprattutto di autonomia, nonché la conseguente preoccupazione di garantire l'assoluta purezza dell'intenzione morale, hanno reso Kant più sospettoso nei confronti del concetto di felicità, fino a fargli rifiutare completamente quell'eudemonismo etico e razionalistico cui pure si era mostrato incline nelle riflessioni. E sotto questo aspetto la fondazione rappresenta l'acme dell'anti-eudemonismo kantiano. La tesi che si vuole qui sostenere, però, è che tale eudemonismo, totalmente bandito dalla fondazione metafisica di costumi, dalla Grundlegung, ricompare invece ampiamente nel suo pensiero religioso o negli aspetti della sua riflessione etica più strettamente connessi con la religione, con la dottrina del sommo bene. In queste parti della riflessione kantiana appare evidente l'influenza del concetto di felicità universale illustrato negli appunti inediti, che non significa ovviamente che quella nozione venga ripresa integralmente, ma che alcuni aspetti di essa ritornano ad essere determinanti. Del resto, come si è visto nelle stesse riflessioni, la nozione di felicità universale presentava notevoli oscillazioni, ora in direzione di una connotazione sensibile, ora in quella di una definizione sovrasensibile e intellettuale. E la stessa critica si è divisa su questo punto. Albrecht fa un nome da un lato, Düsing dall'altro, eccetera. Ora, questa stessa diversità di valenza si ritrova quindi, a seconda delle fasi e dei contesti, anche negli aspetti del pensiero etico e religioso kantiano che presentano un recupero dell'eudemonismo morale. E a mio avviso è quindi necessario distinguere nettamente, a questo proposito, tra gli scritti degli anni 80, cioè 80 fino al 90, cioè le lezioni di filosofia della religione, che risalgono probabilmente all'83-84, la critica della ragion pratica e la critica del giudizio del 90 da un lato, e la religione nei limiti della semplice ragione del 93 dall'altro. Veniamo al primo gruppo. Nel porre il problema del sommo bene all'inizio della dialettica della critica della ragion pratica, Kant ammette esplicitamente la possibilità che, attraverso la mediazione di un autore intelligente della natura, la moralità abbia una connessione causale, si noti, con la felicità come effetto nel mondo sensibile. Del resto, nell'economia del sommo bene, la funzione di Dio è quella di operare sulla natura, in modo da garantire la conformità dell'ordine naturale con la volontà dell'uomo. Anche le lezioni di filosofia della religione ribadiscono più volte che Dio realizza la felicità di cui il virtuoso si rende meritevole attraverso il corso delle cose, l'ordine della natura, le leggi naturali, la natura delle cose, tutte espressioni equivalenti. La realizzazione dell'unione tra virtù e felicità, in cui il sommo bene principalmente consiste, è dunque affidata a quella teologia morale che, divulgata già nelle Forlesine, ripresa nella critica della ragion pratica, troverà poi la sua giustificazione teorica nella critica del giudizio. Infatti, come tutti sanno, il giudizio riflettente rende possibile l'accordo tra libertà e natura, tra ordine morale e ordine fisico del mondo, o, nei termini delle Forlesine, tra perfezione fisica e perfezione morale. Ora, tale accordo non significa soltanto che l'ordine della natura, finalisticamente inteso, favorisce la realizzazione della destinazione morale dell'uomo, ma anche che, in un mondo così ordinato, il virtuoso può o potrà in futuro trovare una corrispondenza sensibile alla sua virtù, cioè la felicità. Ma la felicità che viene così garantita non è più la soddisfazione di tutte le inclinazioni secondo la definizione fondamentale della Grundlegung, della fondazione delle vizi e dei costumi, che ora è dichiarata impossibile, ma è la soddisfazione di quei desideri soltanto che si accordano con una finalità generale, armonizzabile con l'universalità della morale. In altri termini, è una felicità universale, sia nel senso che rende reciprocamente compatibili i desideri, sia nel senso che elimina la possibilità di un conflitto tra volontà individuale e volontà morale. Rispetto alle riflessioni, sussiste soltanto una differenza importante. In esse la felicità appariva come la conseguenza immediata della libertà morale e delle leggi necessarie della ragione, mentre ora essa è opera di Dio che agisce sulla natura in modo da conformarla all'ordine morale. In altri termini, se nelle riflessioni la felicità vera sembrava acquisire un carattere di autonomia, ora viene confermata la sua eteronomia, ancorché nella forma di una teonomia. La felicità dispensata da Dio si distingue da quella empirica soltanto per il fatto che nel primo caso la natura è governata da Dio in base a un principio morale, mentre nel secondo si accorda solo casualmente con i desideri dell'uomo, indipendentemente da ogni principio morale. In un caso come nell'altro, però, la felicità cade al di fuori del dominio dell'uomo. Ora, se nelle tre opere che abbiamo considerato la nozione di felicità, pur recuperando il carattere di universalità della allgemeine Glückseligkeit, conserva il riferimento alla componente sensibile, nella religione essa assume invece una connotazione prevalentemente sensibile e spirituale. Qui Kant opera infatti una esplicita distinzione tra la felicità materiale, che consiste, cito, nella sicurezza di essere sempre soddisfatti del proprio stato fisico, la liberazione dai mali e il godimento di piaceri sempre maggiori, fine della citazione, e la felicità morale, che risiede, cito, nella sicurezza della realtà e della permanenza di un'intenzione sempre in progresso verso il bene, senza mai ricadere nel male. Fine della citazione. Questa sicurezza non può essere acquisita dall'uomo durante la sua esistenza, ma egli ha buone ragioni di sperare nel progresso indefinito verso la perfezione quando si opera in lui una radicale conversione dall'uomo vecchio all'uomo nuovo, mediante l'assunzione di una buona intenzione che comporta un definitivo abbandono del male. In questa conversione, che si noti è una definita come una crocifissione della carne, i mali fisici della vita vengono accettati, cito, come altrettanti occasioni di vaglio e di esercizio della propria intenzione rivolta al bene. Fine della citazione. Perciò essi, se impediscono o riducono la felicità fisica, non intaccano, bensì incrementano la felicità morale, che di null'altro tiene conto se non del progresso verso il bene. La divaricazione tra le due forme di felicità non poteva essere più netta. La cosa più importante è che la felicità morale non è più definita in riferimento alla soddisfazione della sensibilità. Cioè la felicità non viene più definita in riferimento alla soddisfazione della sensibilità, ma consiste in una forma di coscienza. E più precisamente, cito, nella consapevolezza da parte dell'uomo di progredire nel bene. In piena concordanza con quanto si leggeva nelle riflessioni, essa non dipende da condizioni naturali che sfuggono al dominio umano, ma da una determinazione interna al soggetto morale. Anche qui, come negli appunti inediti, c'è piena convergenza tra la felicità e la contentezza di sé, rigorosamente distinte nella seconda critica. Di conseguenza, la definizione della felicità in base al criterio autonomia e eteronomia appare più complessa. Da un lato, certamente nella felicità rimane una dimensione di eteronomia, o meglio di teonomia, perché a causa della costitutiva insufficienza morale e della ineliminabile incidenza del male radicale, l'uomo non è in grado di perfezione morale. Ciò è possibile soltanto attraverso un intervento straordinario attraverso cui Dio dà all'uomo il complemento di moralità necessario per conseguire una piena giustificazione. Citando Kant, quel sovrappiù che va ad aggiungersi al merito delle opere e che è attribuito per grazia. Ma, d'altro lato, questo è il punto che mi preme, la teonomia della religione è molto diversa da quella espressa, ad esempio, dalla seconda e dalla terza critica, dove la felicità è intesa come ricompensa per la virtù, ancorché opera di Dio passava attraverso la natura. Nello scritto sulla religione, la felicità non è la conseguenza diretta della virtù. Scusate, nello scritto sulla religione, la felicità è la conseguenza diretta della virtù, consistendo nell'immediata contentezza che deriva dalla consapevolezza di essa. Dio interviene sì, ma non tanto per conformare la natura all'ordine morale e donare la felicità a chi, pur non essendo capace di produrla, se ne è reso degno, quanto per aiutare l'uomo a conseguire la perfezione, rendendosi così non solo degno, ma anche capace di felicità, intesa come coscienza della propria moralità. Queste differenze comportano anche una diversa accentuazione nella definizione del sommo bene. Se nella critica della ragion pratica l'unione di virtù e felicità, cioè il sommo bene, è intesa prevalentemente come armonizzazione dell'ordine naturale con quello morale, nella religion, in cui la componente sensibile della felicità passa in secondo piano, quella unione deve potersi realizzare indipendentemente dalla natura. Il compito etico dell'uomo qui non è soltanto quello di subordinare la sua sensibilità, cioè la sua natura, al rispetto della legge, ma quello di contrastare, indipendentemente dalla sensibilità, quella costitutiva insufficienza morale, il male radicale, che impedisce di conseguire la perfezione. Ma poiché, secondo Kant, all'origine del male morale vi è una dimensione sociale, anche questa lotta contro il male a favore del bene deve essere opera non del singolo soggetto, ma di una collettività. Ecco perché condizione del sommo bene, come tutti sanno, non è soltanto l'accordo degli aspetti sensibili con quelli morali, ma la formazione di una comunità etica, di un popolo di Dio, ovvero, sono parole kantiane, di una repubblica universale retta secondo le leggi della virtù. Allora, ciò che si attende da Dio non è soltanto di conformare la natura alle esigenze della virtù, ma piuttosto di mettersi a capo di tale comunità, raccogliendo, sono parole di Kant, in vista di un'azione comune, le forze in se stesse insufficienti dei singoli individui. Questa prospettiva comporta però un diverso modo di intendere l'universalità della felicità. Nella critica della ragion pratica, la felicità che Dio dona agli uomini in proporzione della loro virtù è universale nel senso che, presupponendo un accordo tra l'ordine fisico e l'ordine morale del mondo, restringe necessariamente la soddisfazione delle inclinazioni sensibili a quelle che rientrano in questi due ordini convergenti, in analogia con quanto avveniva nelle riflessioni. Nella religione, viceversa, l'universalità della felicità morale è espressa non già dall'armonia delle inclinazioni con se stesse o con l'ordine morale, bensì dall'armonia dei membri del popolo di Dio che si raccolgono in una totalità unitaria, in una chiesa universale. All'universalità che conserva un riscontro nel mondo sensibile si sostituisce un'universalità che si esaurisce nel mondo sovrasensibile delle coscienze morali. Il regno di Dio visibile sulla terra è solo una rappresentazione simbolica che esprime una dimensione scatologica nella quale le condizioni sensibili si risolvono necessariamente nel mondo intelligibile. Cristo, e cito Kant, ha presentato ai suoi discepoli solo il lato morale, stupendo e sublime del regno di Dio sulla terra, quello di essere cittadini di un simile Stato. Fine della citazione. Il lato sensibile, la felicità sensibile, è irrilevante. Anzi, Cristo preannuncia solo tribolazioni e sacrifici, compensando la rinuncia all'aspetto fisico della felicità con l'aspettativa di una più grande felicità celeste. Ma, e vengo all'ultimo punto e alla conclusione di questo intervento, nel corso del pensiero kantiano, il sommo bene e la felicità, quale sua componente, subiscono un processo di trasformazione che riguarda non solo, come abbiamo visto, la loro definizione, la loro natura, ma anche la loro funzione. E ciò ci conduce al problema della esecuzione della legge morale e del ruolo che svolgono in essa il sommo bene e la speranza della felicità futura. Come è noto, nella critica della ragion pratica, l'unico movente morale è il rispetto della legge morale stessa. Ciò esclude che il sommo bene e di conseguenza la felicità possano entrare ad alcun titolo non solo nella definizione del dovere, ma anche nella determinazione della volontà, cioè nella esecuzione del dovere. Di parere diverso appariva Kant nella critica della ragion pura, dove distingueva nettamente, sempre nel canone, distingueva nettamente tra il momento del riconoscimento della legge e quello della sua esecuzione, escludendo che il primo avesse come immediata conseguenza il secondo senza l'intervento di una causa efficiente esterna. Senza l'ammissione di un governatore divino del mondo e un mondo futuro in cui la felicità è distribuita in maniera esattamente proporzionale con la moralità, le leggi morali sono, diceva Kant, vuote chimere. Infatti, una sua citazione, la conseguenza necessaria che la stessa ragione connette ad esse, senza quel presupposto, è destinata a cadere. Fine la citazione. E questa posizione kantiana, per mostrare la convergenza tra critica della ragion pura e riflessioni, era già esplicitamente sostenuta nelle riflessioni, dove Kant diceva «senza religione la morale sarebbe priva di moventi, i quali devono essere tratti tutti dalla felicità». E qualcosa di analogo dice anche nelle lezioni, ma non mi trattengo perché altrimenti rubo troppo tempo. Ora, espunta dalla Grundlegung e dalla seconda critica, questa rivalutazione della funzione esecutiva del sommo bene e della felicità futura, secondo me, si riaffaccia nella religione. Certo, dopo il rigore con cui l'autonomia della morale è stata difesa nella seconda critica, Kant deve procedere con cautele precedentemente non necessarie. Pertanto, la prefazione del 93 della religione si apre con una chiara riaffermazione dell'autonomia della morale, la quale, dice Kant, cito, non ha bisogno di un motivo materiale di determinazione del libero arbitrio, cioè di un fine, né per conoscere cosa sia il dovere, né per compierlo, quindi neanche per l'esecuzione. Tuttavia, subito dopo Kant distingue due valenze del concetto di fine, che può essere inteso o come principio della massima conforme alla legge, oppure come sua conseguenza necessaria. E se come fine inteso come principio, il sommo bene non svolge nessuna funzione né nel riconoscimento né nell'adempimento del dovere, senza il riferimento ad esso come fine conseguenza, dice Kant, cito, non può esserci nell'uomo nessuna determinazione della volontà, perché essa non può avere un effetto. Infatti, un libero arbitrio che all'azione cui tende non aggiunga l'idea di un oggetto oggettivamente e soggettivamente determinato, non può bastare se stesso, perché pur sapendo come deve agire, sarebbe l'oscuro del fine. Fine della citazione. In questo modo, così, Kant stabilisce una connessione necessaria tra la legge morale come principio e la realizzazione del sommo bene come conseguenza. Ma in questo modo la distinzione tra fine principio e fine conseguenza è solo apparente, perché la conseguenza condiziona necessariamente, cioè è solo formale, perché la conseguenza condiziona necessariamente la possibilità dell'azione morale. ancorché formalmente venga distinta dai suoi principi, tant'è che la conclusione di Kant è che la morale conduce inevitabilmente alla religione. Dunque, e concludo veramente, nella religione la speranza nella felicità morale futura, che soltanto Dio può dare, acquista una posizione di primo piano nella stessa vita morale dell'uomo. La domanda che cosa debbo fare appare sempre più vicina a quella relativa a che cosa posso sperare. Poiché la rappresentazione del fine appare all'uomo indispensabile per agire, la ragione gli consente di ammettere tra i motivi determinanti anche l'aspirazione al sommo bene e alla felicità morale. Viene così riconosciuta la validità di un motivo che non è puramente formale e che trae la sua legittimità non dalla sua intrinseca moralità, ma semplicemente dalla sua intrinseca razionalità. Kant precisa anche che in questo senso la ragione pratica va al di là della legge morale. E questo mi sembra che sia un'ulteriore conferma del fatto che anche nella fase più matura del suo pensiero, malgrado tutte le mediazioni, Kant intrattiene nei confronti della tradizione dell'eudemonismo razionalistico un rapporto assai più complesso di quanto non lascerebbero supporre molte sue note affermazioni sul carattere sensibile ed eteronomo della felicità. Grazie. Grazie al professor Mori per questa